di oggi, dopo il primo che abbiamo avuto in gennaio dedicato a Max Weber, l'incontro di oggi è dedicato a Gheorghi Lukács, che come sentirete dalle relazioni dei nostri relatori di oggi, che passerò subito a presentarvi, è stato un grandissimo filosofo della prima metà del Novecento, dimenticato e largamente sottovalutato nella seconda metà del Novecento. Lui è morto nel 1971, largamente dimenticato dalle relazioni dei nostri relatori di oggi, capirete anche perché è avvenuto tutto questo. Dedichiamo appunto questo incontro, partiamo da Storia e coscienza di classe, che è stata un'opera importantissima scritta all'inizio degli anni 20, dopo che c'era stata la rivoluzione dei consigli in Germania e che era stata spenta nel sangue nel 1919, e quindi molto legato anche alle vicende della Prima Guerra Mondiale. I relatori di oggi sono Vittoria Franco, alla mia sinistra, che è una docente di filosofia politica e di filosofia morale, che nei quali campi si è molto impegnata e spesa, ha scritto dei libri importanti come Etiche possibili e in particolare un libro recente dedicato al concetto di responsabilità. Vittoria è stata anche impegnata in attività culturali con forte contenuto civico, diciamo così, come presiedere l'Istituto Gramsci della Regione Toscana per un lungo periodo di tempo, ne ha guidato attività che hanno reso questo istituto molto importante nella vita della città, ma non solo della città di Firenze. E poi è stata molto impegnata anche nelle attività politiche ed è stata eletta in Parlamento, al Senato, senatrice al Senato, e l'ultima delle attività che ha svolto in quel lasso di impegno è stata anche di presiedere la Commissione Cultura del Senato. Quindi il suo curriculum è molto ricco e molto interessante, e lei ha iniziato con una tesi da ragazza, quando si è laureata, proprio su Gheorghi Lukács. Quindi la sua frequentazione e la sua dimestichezza con Lukács è data da molto tempo, come la mia anche, vi dirò, questo ve lo dico per inciso, io stessa la mia tesi di laurea l'ho fatta su Lukács e l'ho fatta proprio su Storia e coscienza di classe. Poi vi racconterò, se sarà il caso, anche qualche episodio divertente, diciamo così, legato al mio incontro con Lukács. Stefano Petrucciani è un amico, come del resto Vittoria Franco, che è addirittura nel comitato dei garanti della Fondazione Basso, e Stefano è un amico della Fondazione ed è nel comitato scientifico della rivista della Fondazione che si chiama Parole Chiave, che vi consiglio di seguire, perché per esempio uno dei numeri che sta preparando è dedicato alla governance, avrete tanto sentito parlare di questo concetto, di questa categoria, si parla sempre governance europea, governance globale, è dedicato alla governance contrapposto, su perché la governance è contrapposta al government, al vero e proprio governo, quindi insomma sono numeri molto interessanti. Stefano, dicevo, è nel comitato scientifico di questa rivista ed è un amico anche della scuola di democrazia, che come sapete questo è il 12° anno di attività della scuola, e Stefano è stato pressoché obbligato, comandato quasi ogni anno, e in qualche anno addirittura due volte è venuto a farci delle delle discussioni, a comunicarci delle riflessioni facendo le introduzioni. Questo però dice anche non solo della generosità e della disponibilità di Stefano, ma anche della gamma degli interessi specifici che Stefano porta avanti come docente di filosofia politica oggi all'Università La Sapienza di Roma, e seguendo in particolare una serie di tematiche che sono legate per l'appunto al percorso storico ideale della grande filosofia novecentesca. Anche Stefano ha scritto libri importanti, uno dei quali è dedicato alla democrazia. C'è uno più di recente anche che stai forse scrivendo. Accidenti, ecco. Tutti e tre i volumi sarebbe troppo. Allora, dette queste cose, io non aggiungo altro e do subito la parola a Vittorio Franco per la prima introduzione, poi avremo l'introduzione di Stefano, interromperemo per soli 10 minuti e poi avremo la nostra discussione. A te la parola, Vittorio. Grazie Laura, buonasera a tutte e a tutti. Ma io cercherò di articolare il mio intervento in alcuni punti che ora subito in partenza vi dichiaro. Prima farò qualche accenno su chi era Lukács nel momento in cui esce quest'opera, Storia e coscienza di classe, nel 1923. Un minimo di contestualizzazione storica per capire cosa stava succedendo nel mondo. Poi passerò a esporre i punti che a me sembrano cruciali dell'opera, naturalmente ne potrò toccare solo alcuni, e siamo in due, quindi fra tutte e due alla fine forse avrete una visione abbastanza completa. E poi non so se resterà tempo, comunque ci sarebbero altri due punti da toccare, anche questi importanti: come fu accolta Storia e coscienza di classe, e poi l'autocritica che Lukács fa rispetto a quest'opera in varie riprese. La più importante è quella del 1967, diciamo la più importante perché è più articolata, più argomentata, in occasione di una ristampa di Storia e coscienza di classe, che quella, l'edizione su cui è stata fatta la traduzione della prima edizione italiana di Storia e coscienza di classe, ma un'autocritica era già stata fatta nel 1933 in un saggio che si intitola La mia via a Marx. Quindi possiamo dire che Storia e coscienza di classe è sicuramente un classico, e però è un classico revocato in dubbio, se non in toto, almeno per alcune parti essenziali. Ed è un classico, giustamente è stato inserito in questa lettura dei classici, perché è sicuramente un classico, primo per la grande influenza che ha avuto, non soltanto nel momento in cui è apparso, ha avuto una grande risonanza, anche con molte recensioni critiche, aspramente critiche, poi ne vedremo qualcuna, e poi perché dà una scossa agli studi su Marx per quell'epoca, quindi affronta temi che non erano affrontati dal marxismo ufficiale che già si stava costituendo, e quindi anche il modo in cui lo fa suscita, come dire, reazioni positive e negative. Quindi, come dicevo, Storia e coscienza di classe esce nel 1923 da una casa editrice tedesca. Lukács aveva 38 anni perché era nato a Budapest nel 1885. L'opera è costituita di saggi. Spesso il giovane Lukács, almeno fino a Storia e coscienza di classe, ma anche dopo, scrive per saggi, poi li raccoglie tutti con un filo, comunque scrive spesso dei saggi che poi raccoglie in opere che hanno un titolo spesso divenuto famoso. Questi 8 saggi sono datati tra il 1919 e il 1922. Di questi 8 saggi, solo 2 sono inediti, vale a dire scritti appositamente per quest'opera, e sono il saggio col titolo La reificazione e la coscienza di classe e un altro saggio che chiude, insomma, in chiusura del volume, Considerazioni metodologiche sulla questione dell'organizzazione. Gli altri sei erano già pubblicati su riviste, anche se alcuni di questi sei sono profondamente rielaborati. Penso al primo dei saggi, che si intitola Che cos'è il marxismo ortodosso, rispetto alla prima versione è molto molto rimaneggiato. Nell'introduzione, che è datata Vienna Natale 1922, quindi nella prima introduzione all'opera, poi vedremo perché si trovava a Vienna, Lukács li presenta come, cito, scritti d'occasione, come saggi nati in mezzo al lavoro di partito, come tentativi che l'autore ha compiuto per chiarire a se stesso e ai suoi lettori questioni teoriche del movimento rivoluzionario. Ora, questa citazione è importante perché comunque fa trasparire già un po' l'intento dell'autore. Ecco, la chiave di lettura che io ho assunto per rileggere, dopo molti anni, devo dire, questa opera, era un po' che non la prendevo in mano, è quella di come dire, guardare a storia e coscienza di classe come a una sorta di teoria politica della rivoluzione che Lukács voleva comunque proporre. Questa teoria politica ha un soggetto privilegiato, noi ne vedremo un po' gli sviluppi, che è il proletariato. Questa categoria di proletariato, io l'assumo come categoria in questo momento, è molto importante per Lukács. Allora, procediamo per gradi. Chi era Lukács al momento in cui appaiono questi saggi raccolti in storia e coscienza di classe? Era già un personaggio molto noto e anche affermato, non soltanto nel suo paese di origine, ma forse anche di più nella Mitteleuropa, in Austria, dove vedremo meglio tra un po' perché, ma comunque era emigrato a Vienna, dove sta un bel po' di tempo. In Germania aveva studiato a Berlino e poi ad Heidelberg. A Berlino addirittura aveva assistito alle elezioni di Simmel, che era uno dei grandi personaggi filosofi del momento. A Heidelberg ebbe occasione di frequentare assiduamente il circolo della domenica, che era il circolo messo su, il salotto, diciamo, di Max e Marianne Weber, che raccoglieva il Gotha dell'intellettualità tedesca del momento. Ma era conosciuto anche in Italia. Per esempio, uno dei saggi, il primo saggio dell'Anima e le Forme, è una lettera a un suo amico, datata Firenze 1910. Era noto anche a Firenze, e per esempio un'altra occasione nella quale si trovava a Firenze era il 1911, quando venne raggiunto dalla notizia che una sua amica, un'amica con la quale aveva avuto una relazione amorosa poi terminata, si era suicidata. E quello fu anche il fatto che ispirò un saggio molto importante, anche questo è molto bello, un saggio in forma di dialogo, che si intitola Sulla povertà di spirito, che poi apparve in ungherese nel 1911, in tedesco lui stesso lo tradusse nel 1912. Possiamo dire che era ancora, per molti critici, comunque sicuramente era stato un intellettuale borghese. Il padre era un direttore di banca in Ungheria, era quindi uno che occupava una posizione di potere, oltre che di prestigio, quindi faceva parte dell'alta borghesia, parlava un po' tutte le lingue, oltre al tedesco, il francese, l'inglese. Era un intellettuale sicuramente borghese, però, paradosso, anche lui stesso lo presenta come un paradosso, era contrarissimo alla cultura borghese, aveva quasi un'insofferenza per la cultura borghese, dice lui stesso, era contro il capitalismo, contro il parlamentarismo, contro l'illuminismo, e dice in varie parti delle sue autobiografie, era affetto da una forma di messianismo etico. Quindi, diciamo, specialmente in Germania, quando studia a Berlino e Heidelberg, frequenta e studia i neocantiani, lo storicismo tedesco era naturalmente alla sua portata e incontrava e frequentava molti di questi degli esponenti di queste scuole, ma studia anche Kierkegaard. Kierkegaard per esempio si rintraccia molto nella sua prima grande opera che è L'anima e le forme. Studia i russi, Dostoevskij era un suo punto di riferimento molto importante, aveva addirittura pianificato di scrivere un libro su Dostoevskij, ha scritto tutto l'indice e più qualche frase di spiegazione su questa sua intenzione, che è stato rintracciato poi tra l'altro questo manoscritto, è stato pubblicato, io stessa ne ho diciamo ricostruito un po' attraverso le poche frasi un percorso. Quindi era autore già di opere molto apprezzate che apparivano su riviste, aveva vinto un premio per un suo testo, per una sua opera già sul dramma moderno nel 1911. La sua opera, diciamo, che a quell'epoca era la più nota, è L'anima e le forme. Thomas Mann definisce quest'opera un libro bello e profondo. Insomma, era già un intellettuale affermato. E posso dire in sintesi che questo Lukács fino al 1917-18 è molto diverso da quello di Storia e coscienza di classe, anche se Storia e coscienza di classe non è che sia un'altra persona a scrivere, è sempre lui con la sua cultura, con la sua formazione, però nelle opere precedenti c'è un Lukács che aveva una prospettiva diciamo filosofica molto diversa, aveva una visione tragica del mondo, lui stesso lo dice, che gli derivava dal fatto che vedeva che la condizione esistente, che era così insopportabile per lui e per molti altri intellettuali, non ci fosse soluzione a questo stato, che ci fosse una distanza incolmabile fra i cosiddetti valori assoluti che anche lui si poneva e poneva agli altri e il peso invece della condizione presente dell'Occidente. Era un anti-occidentalista, possiamo dire. Era sotto l'influenza di Simmel, questo lo afferma anche lui quando parla di quegli anni, e della visione tragica e fatalistica che Simmel aveva sostenuto in alcuni momenti della sua produzione. E invece presenta l'opera come costruzione umana, come utopia, aveva quasi nostalgia di una totalità che invece poi riprende in Storia e coscienza di classe. Ecco, come se la rivoluzione fosse necessaria ma impossibile. Invece poco più avanti uscirà un altro volume molto importante che si chiama La teoria del romanzo, che si chiude con una qualche speranza. Questa opera viene scritta durante la Prima Guerra Mondiale, quindi, come dire, già la realtà delle cose l'aveva portato ad abbandonare questo utopismo messianico che aveva caratterizzato i suoi anni precedenti. Quindi diciamo spesso cambia posizione, no? È perché è un Lukács che è alla ricerca di qualche soluzione ai suoi problemi. Gli scritti appena precedenti a Storia e coscienza di classe sono scritti che riguardano anche problemi etici, e uno dei problemi era, ma insomma, la rivoluzione, questo subito dopo la rivoluzione vittoriosa, insomma la rivoluzione russa, la rivoluzione vuole dire anche violenza, ecco, ma è consentita la violenza eticamente? E questo è uno dei problemi che con Storia e coscienza di classe un po' intende risolti. Per esempio, uno dei saggi importanti di questa epoca appena precedente a Storia e coscienza di classe è Tattica ed etica, dove pone appunto il problema della violenza e della colpa, quindi come se ci fossero delle azioni non etiche, non accettabili sul piano etico e non di meno però giuste. La rivoluzione d'ottobre ebbe su di lui un grande effetto, naturalmente. anche se non proprio subito, perché la conversione al comunismo, lui si converte al comunismo e si iscrive al Partito Comunista Ungherese nel 1918, dopo alcuni contatti con, anche tra gli altri, con il fondatore del Partito Comunista Ungherese, che era Béla Kun, col quale poi entrerà in un grande conflitto. Ma tuttavia in questa fase i contatti anche con Béla Kun lo convinsero a rompere gli indugi, anche quelli etici che lui aveva avuto fino a quel momento, e quindi a diventare anche un militante, oltre che essere un intellettuale. Diciamo che sul piano cominciava a vedere nel proletariato un soggetto redentore. Questo si vede per esempio in un articolo del 1918 sul bolscevismo come problema morale. E il proletariato è per lui la classe che porterà la salvezza. Se volete, questa è una posizione che resterà intatta in storia e coscienza di classe. Quindi Lukács diventa un militante politico, anche un militante politico, partecipa alla Repubblica Ungherese dei Consigli, di cui era capo sempre Béla Kun, che sarebbe la rivoluzione ungherese subito dopo la rivoluzione russa. Questa Repubblica dei Consigli dura da marzo a luglio del 1919. Dentro questa istituzione, nuova istituzione, Lukács è delegato alla cultura e all'istruzione. In seguito Lukács parlerà molto di questa sua esperienza istituzionale, diremmo oggi, politica, comunque militante, e parlerà anche delle buone cose che lui stesso aveva promosso. Però l'esperimento rivoluzionario fallisce, c'è la restaurazione, Lukács è costretto a emigrare, e gli ungheresi che erano costretti a emigrare andavano in Austria, e quindi lui va a Vienna. Ecco perché si trovava a Vienna quando scrive la prima introduzione a Storia e Coscienza di classe. Quindi nel 1923 non era più solo il brillante filosofo intellettuale puro che i contemporanei avevano conosciuto negli anni precedenti, ma era appunto almeno un intellettuale impegnato, un intellettuale militante. Quindi il contesto politico, diciamo, era caratterizzato soprattutto dalla vittoria della rivoluzione, cioè dalla rivoluzione vincente del 1917. E questo vuol dire che, diciamo, questo evento del secolo era presente, no, come retroterra in tutte le prese di posizione del momento e in tutte le azioni promosse dalla politica. Era l'evento che avrebbe dovuto sconvolgere il destino, oltre che della Russia, anche del resto dell'Europa e del mondo. Quindi diciamo che quando Lukács scrive questi saggi, il retroterra politico, storico-politico, è l'attualità della rivoluzione. No? Sembrava che la rivoluzione dovesse scoppiare in tutti i paesi da un momento all'altro. E ci credevano, cioè, era effettivamente così. Però sorgevano anche molti conflitti. E questi conflitti si vedono anche in Storia e Coscienza di classe. Sorgevano le frazioni all'interno dei vari partiti comunisti, emergono le differenze rispetto agli altri partiti che già esistevano, come la socialdemocrazia o i partiti socialisti. Lo stesso partito comunista russo era diviso in bolscevichi e menscevichi. Insomma, era una situazione molto, molto complicata. Lukács aveva fama, se la fece ben presto questa fama, oltre che di dissidente scomodo, perché apparve subito come un dissidente scomodo, anche come un estremista politico. No? Sul piano politico lui si iscriveva sempre alle ali più estremiste. In particolare si chiamava questa frazione di cui faceva parte anche Lukács, cioè la frazione Landler. Landler era il capo corrente, diciamo, di questa frazione, e gli era stato consentito anche di mettere su una rivista che si chiamava Communismus, che è viva fra il 1920 e il 1921, una rivista su cui Lukács scriveva quasi a ogni numero, e c'è proprio un volumetto che raccoglie i suoi scritti su Communismus. Ecco, ma quali sono i concetti che guidano Lukács in questa che a me piace chiamare costruzione di una teoria politica della rivoluzione. Sono tanti, naturalmente, come si può immaginare, io potrò accennare solo ad alcuni di questi. Posso dire subito che diciamo, il suo marxismo è sicuramente intriso della sua cultura di formazione, anche se lui cercava di liberarsene, ed è costruisce un legame molto stretto fra Marx e Hegel, cosa che in quell'epoca era molto rara. L'unico altro filosofo noto che fa la stessa operazione è Korsch, che scrisse un libro, Marxismo e filosofia, che naturalmente venne attaccato quasi come storia e coscienza di classe, anche se Korsch aveva una posizione molto più solida all'interno del Partito Comunista Tedesco. I saggi hanno naturalmente questa vena militante che Lukács stessa aveva detto e aveva anticipato nella sua prima introduzione del 22, però ci sono invece passi di grande spessore filosofico, sicuramente quello più diciamo che ha un peso filosofico, dove la cultura filosofica è molto presente, è quello sulla reificazione, anche perché è quasi l'ultimo che scrive Lukács, quindi come dire, quello più maturo, ecco, mentre gli altri erano, come vi ho detto, Lukács cambiava spesso posizione, insomma era sempre alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Però si risentono moltissimo gli altri pensatori dell'epoca, sicuramente Max Weber, moltissimo, lo stesso Simmel, ma altri, Lask, Rickert, sono tutti esponenti di queste correnti neocantiane che all'epoca andavano per la maggiore. Oltre a Kant, lui era un grande studioso e conoscitore di Kant e naturalmente Hegel, come vedremo. Nel suo marxismo, questo è importante dirlo subito, l'ho già accennato ma lo ripeto, enfatizza molto l'influenza della dialettica hegeliana sul materialismo dialettico di Marx, cioè addirittura vede Marx come colui che porta a compimento ciò che Hegel aveva cominciato a elaborare, su cui Hegel aveva costruito la sua dialettica. Che cosa valorizza, questo lo dico subito, poi lo vedremo meglio tra un momento, della logica hegeliana Lukács? Valorizza l'idea di processo, l'idea di trasformazione della storia, quindi la dialettica della storia, ma valorizza anche un'altra categoria che sarà per lui importante sempre, anche dopo, quando rinnegherà quest'opera, quando passerà ad altri studi, è la categoria della totalità concreta. Cercherò di spiegare meglio che cosa questo vuol dire. Poi, certo, altre categorie, sempre di origine hegeliana, immediatezza e immediazione, identità di pensiero ed essere, identità di soggetto e oggetto, sono tutte categorie e posizioni che derivano da Hegel, anche se poi nella costruzione di Lukács assumono un'altra valenza. Addirittura a un certo punto di Storia e coscienza di classe dice: la dialettica hegeliana diventa un'algebra della rivoluzione. Questo è molto importante, perché cioè non è un fatto solo filosofico, non è un approccio solo filosofico quello di Lukács, ma per questo io ho voluto sottolineare questo approccio di teoria politica, è anche un vedere, andare a vedere, a scavare sul rapporto con la rivoluzione, perché quello era il problema attuale. Ritorneremo comunque poi su questo. Quindi non solo Marx metterebbe sui piedi Hegel, no? Quindi il famoso rovesciamento che Marx produce della dialettica hegeliana, ma ne fa uno strumento della rivoluzione. Questo è il dato nuovo che va sottolineato, secondo me. Ma allora, quali sono questi pezzi della teoria politica di Lukács? Uno è proprio il materialismo dialettico, ovviamente. Nel primo saggio, Che cos'è il marxismo ortodosso, Lukács parte dalla domanda si chiede qual è il maggior contributo di Marx alla teoria e alla conoscenza della realtà, E a che cosa ci si riferisce quando ci si definisce marxisti ortodossi? In fondo, che cos'è questo marxismo ortodosso? Ecco, risponde, io semplifico naturalmente, le risposte di Lukács sono molto più articolate. Il maggior contributo di Marx non consiste nella sua teoria economica, perché nel marxismo ufficiale c'era questo, cioè che Marx metteva al centro l'economia. E invece per Lukács non è così, non è l'economia, non è la teoria economica, diciamo, la categoria di maggior peso, la parte di maggior peso del suo pensiero, ma la sua importanza maggiore sta nel metodo. E questo metodo naturalmente si identifica con il materialismo dialettico. Qui, quando parla di metodo, ha le sue buone ragioni intrinseche alla costruzione del suo pensiero, però è evidente che dietro c'era di nuovo, ci ritorno su, la cosiddetta disputa sul metodo, che tra gli anni fine 800 e primi del 900 era molto diffusa nella cultura tedesca. Riguardava il rapporto tra il metodo delle scienze sociali, storico-sociali, e il metodo delle scienze naturali, no? Questo era un po' una risposta al positivismo. Il positivismo sosteneva un metodo indifferenziato, una specie di monismo metodologico. Invece questa disputa, che vedeva come partecipanti fior fiore di intellettuali tedeschi, di filosofi tedeschi, una differenziazione fra le due discipline. Ecco, invece per Marx, per Lukács, solo il metodo dialettico, e questa è la connessione che mi interessa rilevare di più, è solo il metodo dialettico può essere veicolo della rivoluzione. E questa è la straordinaria invenzione di Marx, secondo Lukács. Ecco, ma che cosa unisce un metodo di analisi con la rivoluzione? Qual è il nesso fra queste due? Ma posso anticipare intanto una risposta sintetica, perché solo il metodo dialettico consente di considerare la storia come un processo, quindi consente l'interdipendenza fra teoria e prassi, fra presa di coscienza e azione, consente l'interazione fra soggetto e oggetto della storia. E questo materialismo dialettico ha la sua efficacia per il fatto che la realtà viene considerata modificabile. No? Mentre le leggi naturali sono quelle, le leggi storico-sociali significa che la realtà può essere modificata, perché modificabili sono i rapporti fra le classi. Questa comparsa delle classi sarà anche questo un elemento che entra nella costruzione lukacciana. Qui devo accennare subito al fatto che Lukács, ma lo dice lui stesso in questo saggio, in questo primo saggio su che cos'è il marxismo ortodosso, Lukács critica Engels perché Engels inseriva nella validità del materialismo dialettico anche la natura. Esiste una dialettica della natura, no? Il famoso anti-Turing di Engels, mentre Lukács esclude la natura dal metodo dialettico. La dialettica può applicarsi solo alla realtà sociale. Tra l'altro, anche qui apro una parentesi, se non avessimo il tempo di parlarne dopo, sarà questo del rapporto con Engels e della inclusione della natura nella validità del metodo dialettico uno dei punti di attacco di alcuni critici di Lukács. Ecco, quindi rispetto al materialismo classico, al materialismo settecentesco per esempio, ma anche rispetto al materialismo feuerbachiano, l'elemento di novità è la modificabilità della realtà, che per Lukács di questi anni significa possibilità della rivoluzione. Questa è cioè quando lui pensa alla trasformabilità della realtà si intende possibilità della rivoluzione ad opera del proletariato. Diciamo che Lukács assume la famosa tesi di Feuerbach, secondo la quale i filosofi finora si sono limitati a interpretare il mondo, è arrivato il momento di trasformarlo. Spesso ricorre questa tesi su Feuerbach di Marx. E qui troviamo spesso elementi di critica alla socialdemocrazia tedesca, cioè uno dei punti ritornanti, diciamo, non solo di storia e coscienza di classe, ma anche di altri scritti. Perché? Perché il socialismo lì veniva considerato come un processo graduale e soprattutto lui prende di mira soprattutto il leader intellettuale, scrittore Edward Bernstein, autore dei presupposti del socialismo, il quale era fra le altre cose anche un teorico di uno sviluppo verso il socialismo senza rivoluzione e sostenitore del fatto che bisognasse liberarsi dai lacci dialettici dell'hegelismo. Quindi sono due punti, la dialettica e il rapporto con Hegel, che stanno molto a cuore a Lukács, che invece per i socialdemocratici erano cose di cui liberarsi. Non ci si pone, questo è un po' il ragionamento di Lukács, dentro una prospettiva dialettica, non si riesce a dare neanche un'interpretazione dei fatti che si prendono in considerazione. Perché questo? Perché inevitabilmente i fatti vengono isolati, no? Vengono isolati l'uno dall'altro, vengono, dice, considerati nella loro immediatezza, termine, come abbiamo detto, della logica hegeliana. Si perde la connessione fra i fatti, si perde soprattutto il senso della loro storicità. Perché questo? Perché si perde il riferimento all'intero, si perde la connessione con la totalità della realtà sociale o economica o sociale ed economica. E invece la dialettica che cosa fa rispetto a questo considerare i fatti isolatamente, senza connetterli fra di loro e soprattutto senza connetterli con un intero? La dialettica fornisce le categorie della mediazione e quindi della processualità. Ritornerò poi su questo punto perché è effettivamente un punto importante. Quindi dal materialismo dialettico ora incontriamo un'altra delle categorie della teoria politica della rivoluzione di Lukács, la totalità concreta, che costituisce il nerbo della dialettica stessa. Senza questo riferimento alla totalità, quindi all'intero della realtà, i fatti, i fenomeni restano nella loro immediatezza, nella loro datità, nel loro essere così, tutto linguaggio hegeliano. Lukács, come dire, rielabora attraverso il linguaggio hegeliano delle prospettive filosofiche importanti. E invece il rapporto dialettico cosa ci aiuta a fare? A riconoscere i fenomeni, però anche a mettere in moto delle azioni di superamento. Quindi, dice Lukács, qui cito, solo operando questa connessione nella quale i fatti singoli della vita sociale vengono integrati in una totalità come momenti dello sviluppo storico, diventa possibile una conoscenza dei fatti come conoscenza della realtà. Quindi è la dialettica che ci mette in grado di conoscere veramente la realtà sociale, perché ci dà sia questa connessione con la totalità, sia ci consente di mettere in moto azioni di superamento e quindi di realizzare quella processualità che è propria della dialettica. Quindi c'è un livello di conoscenza più profondo che va al di là di ciò che appare, che ciò che appare ci fa isolare un fenomeno e quindi non ce lo fa capire fino in fondo. Questa essenza più profonda che sta dietro il fenomenico, l'immediatezza, la mera datità, ci viene consentito dal fatto che appunto impariamo il riferimento alla totalità, alle interconnessioni dialettiche, alle mediazioni che possono portare oltre l'immediatezza. Quindi esiste un materialismo non dialettico, di cui ho detto prima, per esempio l'illuminismo, per esempio lo stesso Feuerbach, assume questo materialismo non dialettico i fatti nel loro astratto isolamento, tiene le diverse determinazioni sociali nella loro separatezza, e però in questo modo viene occultato il carattere storico e transitorio non soltanto di fenomeni sociali qualsiasi, ma della società capitalistica, perché questo era il tema, no? Come superare la società capitalistica. Quindi la totalità concreta diventa la categoria autentica della realtà, perché, lo ripeto, consente una conoscenza dei processi, la conoscenza dei fenomeni nella loro processualità e soprattutto nel collegamento fra di loro. Quindi superare l'immediatezza, superare l'isolamento, superare la fatticità, diciamo. Un qualche cosa su cui si sofferma Lukács, che gli viene molto rimproverata nelle recensioni che poi usciranno dai suoi avversari politici, è il fatto che questo metodo dialettico diventa valido ed efficace solo con la società capitalistica. Perché questo? Perché la società capitalistica che offre alla dialettica qualche cosa di realmente esistente e valido, ed è l'antagonismo fra classi, l'antagonismo fra le due classi, tra forze di produzione e rapporti di produzione, fra capitale e lavoro. Quindi diciamo che c'è una materialità delle condizioni sociali reali che rende possibile ed efficace il metodo dialettico. Se non si vede questa contraddizione dialettica che è reale, quindi non solo un dato del pensiero, come spesso era in Hegel, perché Hegel, il soggetto della fenomenologia hegeliana è lo spirito del mondo, cioè è lo spirito, è l'idea, non c'è riferimento. Ecco, per Lukács invece è questa realtà che ha una validità. Quindi, non che non sia possibile, questo lo dico per chiarire meglio questo concetto, descrivere un evento storico in modo corretto, ma per Lukács ciò non significa che in questo modo ne abbiamo colto la funzione reale all'interno della totalità di cui questo particolare fenomeno è parte. Non significa cioè che lo si sia compreso nell'unità del processo storico. Si possono descrivere correttamente i vari momenti della produzione, dello scambio, del consumo delle merci, eccetera, che ciascuno di questi ha una sua autonomia e quindi può essere benissimo descritta, ma non se ne coglie la vera realtà se non si collegano questi vari elementi fra di loro, appunto, in un rapporto dialettico dinamico all'interno di una totalità. Quindi questo accade solo se si tiene conto del fatto che fra questi diversi fenomeni ha luogo una interazione in rapporto con l'intero, che è la società capitalistica. Questo è l'intero di cui poi in fondo interessa parlare a Lukács. Un altro esempio che prende da Marx, che può chiarire ancora meglio questo fatto, dice Marx: una macchina filatrice di cotone è una macchina per filare il cotone, non c'è verso, questo è inattaccabile, ma soltanto in determinate condizioni diventa capitale, cioè diventa un'altra cosa, viene ad assumere un'altra funzione, perché entra nel processo di produzione capitalistico. Quindi diciamo che il rapporto con l'intero determina anche la natura dell'oggetto, no? Si può guardare alla macchina filatrice di cotone da varie prospettive e ciascuna di queste ci restituisce un oggetto con una funzione diversa. Quindi Lukács conclude: solo la considerazione della totalità propria del metodo dialettico si rivela come conoscenza della realtà dell'accadere sociale, quindi come la vera conoscenza dei fatti storici, del loro senso e della loro funzione reale nel processo storico. Ecco, prendiamo questa espressione, realtà dell'accadere sociale, nella quale appunto si esaurisce il metodo dialettico. La realtà di cui parla Lukács, lo ribadisco, interpretando Marx, è la realtà sociale. I fatti sono quelli che riguardano la riproduzione umana e in specifico i rapporti sociali di produzione. Quindi sta parlando di una condizione nella quale il nucleo dell'essere si è scoperto come accadere sociale. Ma questo salto concettuale sul modo di concepire l'essere, cosa comporta, cosa rende possibile? Perché ci tiene tanto Lukács a sottolineare questo elemento? Per Luca c'è importante perché questo essere della realtà sociale, cito, può apparire come prodotto, questo è importante, può apparire come prodotto, sia pure finora inconsapevole, dell'attività umana. E questa attività può a sua volta apparire come l'elemento determinante della trasformazione dell'essere. Quindi è prodotto, questo essere sociale è prodotto dell'attività umana e proprio per questo può essere l'elemento determinante della trasformazione dell'essere, no? Tutto si tiene in questa catena. Quindi c'è una forma di attività che è trasformatrice della realtà, intesa come realtà sociale, e in questo senso la realtà è prodotto dell'attività umana. Poi, se questo lo tenete a mente, poi tra un po' vediamo come perché è importante. E qual è il processo storico che ha consentito questa concezione della realtà come realtà sociale? Beh, qui lo diceva anche Marx, comunque Luca ce lo legge, lo rilegge a modo suo, questo prodotto di socializzazione della società è conseguenza dell'avvento della società borghese. In fondo anche Marx parlava del ruolo rivoluzionario, no, svolto dalla borghesia. Qui cito Lukács perché è molto efficace. Come potete immaginare, non è facile leggere Storia e coscienza di classe, cioè è un libro difficile da leggere, sia perché le categorie che Lukács usava per alcuni aspetti sono desuete o comunque non ci dicono più quello che dicevano allora, non hanno più l'importanza che avevano allora. Invece in alcuni passaggi invece è molto chiaro, è esplicito e fa capire le sue intenzioni. Quindi nel mondo della società borghese, questo mondo di uguaglianza formale di tutti gli uomini, scompaiono sempre più quei rapporti economici che hanno regolato direttamente il ricambio organico tra uomo e natura, come era nel Medioevo, quando i rapporti sociali appunto conservavano ancora una vicinanza ai problemi della natura. L'uomo diventa, nel vero senso della parola, essere sociale. La società diventa la realtà stessa dell'uomo. Quindi c'è una trasformazione della realtà sociale per cui questa si distacca ancora di più dalla naturalità dell'essere umano e tutto diventa socializzato, cioè prodotto dell'uomo. Questa socializzazione significa che questa società è prodotto dell'uomo. Quindi questo che vuol dire? Che anche le leggi che regolano la società e l'economia capitalistica sono opera dell'uomo, a differenza delle leggi della natura da cui l'uomo è sovrastato e quindi non le può trasformare. Sempre disputa sul metodo, no? Vi ricordate sempre la disputa sul metodo che insomma si era svolta in Germania, che ha avuto una grande influenza. E a questo si aggancia il discorso della praxis, che può trasformare la realtà. Questo della prassi è molto importante, era importante in Marx, diventa ancora più importante nel momento dell'attualità della rivoluzione, cioè come si agisce questa prassi per arrivare alla rivoluzione. E qui tocchiamo un altro punto di questa teoria politica lukacciana, è il rapporto dialettico appunto fra teoria e prassi. Lukács aggiunge qualche cosa: solo il proletariato può godere della possibilità di tenere unite teoria e prassi, cioè conoscenza della realtà e sua trasformazione. Questo è uno dei passaggi decisivi di Storia e coscienza di classe. Ma a quali condizioni? Che non siano gli individui, non sta parlando degli individui, no? Quando parla dell'unità di teoria e prassi non parla dell'azione degli individui singoli. Se infatti, dice Lukács, la praxis viene considerata come forma di attività dell'individuo isolato, si trasforma in etica, e non è quello che interessa più a Lukács, gli interessava qualche anno prima, ma adesso gli interessa un'altra cosa. Lukács sta parlando della classe come soggetto di trasformazione, solo la classe può essere soggetto di trasformazione sociale. E qui di nuovo riprende Marx a proposito della borghesia come classe che ha avuto un ruolo rivoluzionario, che ha contribuito a creare quella che chiamiamo la società moderna. E però ora essa, cioè la borghesia, è interessata ad abdicare a questo ruolo di trasformazione e a conservare lo status quo. Quindi la borghesia diventa trasformatrice per salvaguardare la sua sopravvivenza, il suo interesse di classe. È la classe invece che prende in mano la possibilità di proseguire nella trasformazione e superare la società capitalistica, è il proletariato. Quindi è il proletariato il soggetto della creazione della nuova società. Lukács va ancora oltre questo e dice, semplifico, il costituirsi con la società capitalistica del proletariato, quindi la classe che dispone della forza lavoro, che è costretta a vendere come merce, quindi il costituirsi con la società capitalistica del proletariato consente una conoscenza più vera della realtà sociale, no? E c'è una affermazione di superiorità del proletariato, è una parola che usa Lukács, di superiorità del proletariato rispetto alla borghesia. Perché solo il proletariato può produrre questa conoscenza più vera e non più la borghesia? Perché solo il proletariato può collocarsi nella prospettiva della totalità, può collocarsi dal punto di vista dell'intero, e perché solo collocandosi dal punto di vista della totalità esso può conoscere la sua situazione di classe e l'intera società. Dal punto di vista del proletariato, cito Lukács, vengono a coincidere la conoscenza di sé e quindi della sua missione, del suo essere all'interno di questo insieme che è il rapporto tra rapporti di produzione, capitale e lavoro, quindi vengono a coincidere la conoscenza di sé e la conoscenza della totalità. Ed esso è, cioè il proletariato è al tempo stesso soggetto ed oggetto della propria conoscenza. Questo è sconvolgente, questa, dal suo punto di vista, dal punto di vista del ragionamento di Lukács. Lo capiremo meglio tra poco, che cosa, la portata di questa affermazione, no? Che può essere soggetto e oggetto della propria conoscenza e dell'affermazione della superiorità del proletariato. Quindi abbiamo così però incontrato un altro passaggio importante della costruzione lukacciana, che è l'identità di soggetto e oggetto del proletariato. Quindi è soggetto conoscente e oggetto, nel senso che si rende conto della propria situazione rispetto all'intero della società capitalistica, fa parte quindi esso stesso del processo che conosce. Quindi questa società che il proletariato, guarda, non di proletario, sta parlando della classe, conosce, non è qualche cosa che non lo riguardi, no? Come se qualcuno ha studiato Kant, la conoscenza per Kant è il soggetto che conosce e la realtà che viene conosciuta, c'è una distanza, no? Il rapporto poi tra un fenomeno, un numero, insomma una cosa molto complicata, però quello che a Luca ci interessa criticare in Kant è questa distanza fra. E invece nel questo processo di conoscenza di cui sta parlando Lukács, il proletariato è esso stesso parte del processo che conosce, no? Ecco perché è soggetto-oggetto identico. Sto cercando anche di saltare un po' perché sì, intanto poi casomai le cose che non riesco a dire le riprenderemo dopo, insomma, quindi fin dove arrivo tu mi blocchi e io finisco. Sì, no, ma appunto ho detto soltanto la metà delle cose, però comunque va bene lo stesso. Quindi dentro il rapporto con l'intero nasce la destinazione del proletariato come classe rivoluzionaria, che è destinata a sopprimere se stessa per creare una società senza classi e liberata dalla reificazione. Ritornerò poi su questo, ci sarà tempo, comunque c'è sempre la nostra riserva della Repubblica, che è Stefano Petrucciani, che parlerà di tutto quello che è. Allora, naturalmente, come dice il titolo dell'opera, c'è un'altra categoria importante che è centrale, che è la coscienza di classe. Questo è che cos'è la coscienza di classe? Beh, possiamo dire, semplificando molto, che è la consapevolezza della propria situazione di classe all'interno di questo intero, che è la società capitalistica, considerata nella sua totalità. Quindi il rapporto dialettico con l'altra classe, la borghesia, perché il proletariato non è che annulla la borghesia fino a che c'è la società capitalistica, no? Stanno tutte e due in un rapporto dialettico, si fanno la guerra, si fanno la lotta, però comunque continuano ad esistere. Quindi è coscienza della propria missione storica. Dice proprio Luca, più o meno, non cito alla lettera, ma la coscienza di classe è il senso divenuto cosciente della situazione storica della classe. Quindi non è la coscienza psicologica dei singoli componenti della classe, oppure la totalità delle coscienze dei vari, non è questo, è qualche cosa di più astratto, anche se esistono diversi gradi dalla coscienza psicologica del singolo alla coscienza di classe, però tuttavia. Ma c'è un'altra diversa formulazione della definizione che diventa centrale nel discorso di Luca, cioè che sarà oggetto di attacchi da parte di coloro che recensiscono storia e coscienza di classe, non tutti naturalmente, ma di quelli che rappresentavano, avevano la pretesa di rappresentare il marxismo ufficiale. La coscienza di classe, dice Lukács, è la reazione razionalmente adeguata che viene attribuita di diritto ad una determinata situazione tipica nel processo di produzione. Non è la coscienza reale, è una coscienza che si attribuisce di diritto. Questa coscienza non è quindi né la somma né la media di ciò che pensano, sentono i singoli individui che formano la classe. Essa è ciò che dovrebbe essere, secondo, questo aggiungo io, un modello idealtipico. No? Questa reazione razionalmente adeguata, Lukács la intende come l'insieme delle idee, i sentimenti, gli scopi, le aspettative che gli uomini avrebbero se fossero coscienti della loro condizione socio-economica, se fossero coscienti fino in fondo. No? Ci sono diversi gradi, ecco, nell'epoca della maturità questa sarebbe la coscienza che il proletariato dovrebbe avere, no? Questa è l'attribuzione di diritto. C'è un chiaro riferimento a concetti di Max Weber, se volete nella discussione poi li riprendiamo, che è proprio pari pari Max Weber, insomma, l'idea sia di tipo ideale sia dell'imputazione causale, sono due elaborazioni weberiane che Lukács riassume nella sua posizione. E tuttavia la coscienza di classe è importantissima nell'organizzare l'intero della società secondo i propri interessi di classe, l'aveva fatto anche la borghesia. E però solo nel capitalismo emerge in tutta la sua nudità, dice Lukács, e purezza, l'interesse economico di classe come motore della storia. Questa è la novità della società capitalistica, no? Che sono nate due classi che hanno costituito, si sono rivelate essere il motore della storia. La borghesia l'ha già dimostrato, perché ha vinto una rivoluzione e quindi si è appropriata dei centri di potere, del governo della società, e ha trasformato la società. E il proletariato lo deve dimostrare. Questo è, diventerà il motore della storia da qui in avanti. Nelle società precapitalistiche esistevano solo ceti sociali, dice Lukács, forze cieche, che non emergevano alla coscienza, perlomeno non avevano questo ruolo di promotori della storia o motori della storia. E comunque nella lotta di classe, che è quella appunto che esisteva anche in quel momento, nel momento in cui il capitalismo entra in crisi, l'elemento che decide poi dell'esito di quella lotta è la coscienza di classe, cioè a seconda del livello di maturazione della coscienza di classe si ha la possibilità di cogliere l'opportunità di cambiare le cose, quindi di rendere vincente la rivoluzione. Ma non c'è automatismo, non c'è automatismo fra sviluppo economico, sociale e rivoluzione, questo Lukács non l'ha mai detto, questo era piuttosto una caratteristica degli evoluzionisti, anche di alcuni teorici, compreso Bernstein, della socialdemocrazia, ma per Lukács non è così, è l'azione del proletariato che decide, quindi la prassi, è la capacità di cogliere, di saper cogliere il momento e volgerlo a proprio favore che decide dell'esito. Quindi un altro capitolo qui proprio accenno, è coscienza di classe e partito, perché il partito naturalmente ha un grande ruolo, il proletariato, va bene, si costituisce in classe nel processo rivoluzionario, e che questo è indipendente dal partito, ma al partito spetta, dice Lukács, l'alta funzione di essere portatore della coscienza del proletariato, coscienza della sua missione storica. Qui dico una cosa, se ho ancora qualche minuto, perché quando si va a analizzare il rapporto dialettico fra le due classi della società capitalistica, cioè la borghesia e il proletariato, cosa si può osservare? Beh, sul piano storico si può osservare che la borghesia ha vinto, cioè il maturare della sua coscienza l'ha portato alla vittoria rispetto alle società precapitalistiche. Essa però viene a trovarsi spesso in una situazione tragica, questo è un aggettivo che usa Lukács. Tragica perché? Perché è ancora impegnata a schiacciare il suo predecessore diventato nemico, il feudalesimo, quando appare già il suo attuale nemico, che è il proletariato. Quindi, nel punto più alto del suo sviluppo, la borghesia è costretta a cadere in una insolubile contraddizione con se stessa. Questo poi è il motivo per cui parla di superiorità, lo vedremo fra un momento. Quindi la maledizione tragica della coscienza di classe della borghesia è che non può portare più in là la sua coscienza di classe, perché si renderebbe conto della sua, naturale fine, insomma, no? Se andasse in fondo a questa presa di coscienza, che verrebbe a conoscere il fatto che è destinata a soccombere. Per il proletariato invece la verità della conoscenza è l'arma che la può portare alla vittoria, al proletariato. Il proletariato ha una posizione privilegiata nella conoscenza della realtà, ecco perché è superiore, diciamo, perché può arrivare alla conoscenza vera, alla conoscenza corretta della realtà nella sua totalità. Il proletariato sa che la sua vittoria rispetto alla borghesia coinciderà con la sua soppressione, cioè il proletariato sa che è destinato ad autosopprimersi per realizzare però la società senza classi, cioè una società superiore, liberata dalla reificazione, eccetera. Ora io non avrò il tempo di parlare della reificazione, ma comunque si vedrà. Resta però il fatto che Lukács non spiega, questo lo dico così per cominciare a buttare anch'io qualche seme per la discussione, non spiega come si possa passare dalla coscienza attribuita di diritto alla prassi rivoluzionaria, cioè se la coscienza è attribuita di diritto non corrisponde alla realtà, perché ci sono diversi gradi nella presa di coscienza. Come si fa a passare alla prassi e a sapere, a capire quando la situazione è matura? E questa è una cosa che riconoscerà lo stesso Lukács nell'autocritica dell'introduzione del 67. Lui stesso dice: la conversione della coscienza attribuita di diritto in praxis rivoluzionaria appare nell'opera, considerata oggettivamente, come un puro e semplice miracolo. Cioè nella sua costruzione c'è sicuramente questo dato. Non so se ho superato il mio tempo, qui avrei cominciato a parlare se ne avessi avuto il tempo, ma posso poi magari intervenire dopo sulla reificazione. Poi avrei parlato un po' di un paragrafo del capitolo sulla reificazione che si intitola, è dedicato alle antinomie del pensiero borghese rispetto alle quali Lukács prende le distanze, per far emergere di nuovo a livello filosofico, questa volta quindi dopo un ragionamento molto più filosofico, il proletariato come soggetto, come nuovo soggetto della storia. Lui critica Hegel perché Hegel è arrivato alla mitologizzazione dello spirito del popolo senza portare a niente, si ferma al presente, in Hegel non c'è il futuro. Ecco, questo spirito del popolo concretizzatosi può essere e diventare il proletariato. Però alla fine io mi chiedo, ma questo proletariato non è a sua volta una mitologizzazione dello spirito del popolo di Hegel, insomma, ecco, questo sarebbe stato il corso, il prosieguo del mio intervento, ma insomma possiamo riprenderlo dopo, intanto sì. Comunque c'è Stefano, grazie. Bene. Noi poi che viviamo i tempi nei quali gli operai bianchi votano a Trump, questa domanda ce la facciamo. Già. Nel senso che è Trump che gliel'ha attribuita. Bene, no, devo dire che per un caso fortunato io parlerò un po' di più appunto dei temi che Vittoria purtroppo non ha potuto svolgere per mancanza di tempo, quindi alla fine ci sarà una sorta di sinergia, spero. Anche se molte cose sono state già dette con grande precisione e chiarezza, e quindi sono molto agevolato nel mio intervento, che potrà essere sicuramente un po' più breve e un po' più sintetico. Allora, dunque, Storia e coscienza di classe, questo libro del appunto pubblicato nel 23, tradotto anche in italiano, che abbiamo letto avidamente negli anni 70, poi è stato depositato in cantina, come si vede dalle tracce di, diciamo, ombre di muffa, e poi è stato riscoperto a varie riprese, no? Però il tuo è migliore del mio, perché lui è tutto occupato. Guarda questo. Allora. Io devo fare la copertina nuova perché si regala. Bene. Allora, come ha già ricordato Vittoria, questo libro ebbe un destino alquanto travagliato, perché insomma, fu messo sotto processo nell'ambito della Terza Internazionale, e fu scomunicato nel quinto congresso dell'Internazionale Comunista, appunto. In particolare fu attaccato da Zinoviev, che era uno dei grandissimi dirigenti dell'Internazionale Comunista, nel congresso che si tenne a Mosca nel 1924. E una debole eco, diciamo, del libro di Luca ci arriva anche nei quaderni del carcere di Gramsci, che però insomma non ha avuto la possibilità di leggere, quindi dice: dicono che Luca ci neghi la dialettica della natura, potrebbe avere ragione, potrebbe avere torto, ma solo sulla base di quello che era riuscito a orecchiare, diciamo. E a questo attacco, insomma, ebbe molti attacchi, come ha ricordato Vittoria, e tra l'altro scrisse poi nel 25-26 una autodifesa, che è pubblicata anche in italiano, che si intitola Codismo e dialettica, in italiano il titolo è Coscienza di classe e storia, codismo e dialettica, e che è stata un libretto che viene da un manoscritto che è stato pubblicato solo nel 1996, e nel quale c'è una risposta, diciamo, ad alcuni degli attacchi che gli erano stati rivolti. Ma, diciamo, la mia ovviamente è un'interpretazione soggettiva e risente, il mio è un Luca visto attraverso le lenti della scuola di Francoforte, diciamolo subito, così si capisce che tipo di approccio c'è. Allora, perché la mia domanda innanzitutto di partenza è questa: perché è importante questo libro di Lukács? Perché ha, come secondo me, ha un grosso valore storico? Ecco, e la mia risposta è molto semplice anche questa. Questo libro è importante perché sostanzialmente, andando all'ingrosso, è quello con il quale nasce quello che io chiamerei il marxismo filosoficamente sofisticato del Novecento, cioè il marxismo che piglia un po' sul serio la filosofia e quindi che elabora delle grandi teorizzazioni che sono e vanno a costituire un pezzo importante della storia della filosofia del Novecento. Senza questo libro, diciamo così, non ci sarebbero stati probabilmente né Ernst Bloch, né Marcuse, né Adorno, né Lucien Goldman, cioè una serie di grandi personaggi che hanno sviluppato nel Novecento un marxismo filosoficamente agguerrito, filosoficamente complesso, non le chiacchiere del materialismo storico, non la ripetizione dei dogmi, non la stanca, diciamo, ripetizione di Marx, ecco, quindi tutta gente ovviamente molto eterodossa, no? Ecco, non ci sarebbe se non ci fosse stata storia e coscienza di classe, perché è quello che apre alla lettura filosoficamente impegnata del marxismo, fuori appunto dall'equazione marxismo-materialismo, fuori dal materialismo dialettico, dialettica natura, fuori dall'engelsismo, insomma, questo è uno dei libri che sono, diciamo, alla radice della demonizzazione di Engels, per esempio, come grande semplificatore del marxismo, insomma, no? Perché qui con questo libro Engels viene giustamente bastonato, anzi pure troppo, probabilmente, no? Però è uno dei libri che sono alla radice di un altro modo, insomma, di pensare, e cioè di un modo che consente, che ha consentito a tutta questa galassia di pensieri più o meno ispirata a Marx di svolgere un ruolo nella storia intellettuale del Novecento. Quindi io lo guardo da questo punto di vista, diciamo dal punto di vista del contributo intellettuale e della filosofia in modo particolare. E qui l'importanza di storia e coscienza di classe è decisiva. E addirittura, come sapete, c'è stato chi, come questo importante teorico dialettico, oggi un po' dimenticato, che si chiama Lucien Goldman, ha sostenuto che neanche il capolavoro di Heidegger, cioè Essere e Tempo, il libro del 27, sarebbe stato quello che era senza la teoria lucacciana della reificazione. E infatti questa categoria di reificazione ebbe un impatto molto vasto che non si è ancora esaurito, è stata molto spesso rivisitata, una delle ultime rivisitazioni, non particolarmente convincente, ma che comunque sta a testimoniare la vitalità della categoria, è quella che ha fatto Axel Honneth in un libro che è stato tradotto anche in italiano nel 2007, che si chiama appunto Reificazione. Dunque, il nodo concettuale, diciamo, della reificazione è molto chiaro, del resto è stato già introdotto da Vittoria, e cioè si fa riferimento, Lukács fa riferimento in modo particolare, per elaborare questo concetto, alle pagine che Marx dedica al feticismo delle merci, che si trovano nel primo libro del Capitale, dove non viene utilizzata la parola reificazione, che in tedesco si dice Verdinglichung, perché Ding in tedesco significa cosa, e quindi reificazione significa cosalizzazione, cosizzazione. Ecco, Marx non usa questa parola nelle pagine del Capitale sul feticismo, la usa però in altre parti del Capitale, un paio di volte nel terzo libro, nei manoscritti del terzo libro. E, ma che cosa significa appunto reificazione? Ecco, questo quello che diceva già Vittoria, e cioè che quella realtà sociale che è un prodotto dell'attività umana si trasforma e appare agli uomini qualcosa che non è un loro prodotto, ma è governato da leggi estranee che, sulle quali gli uomini non possono, non riescono a influire, e che dominano e controllano gli uomini stessi. Quindi, per dirla con una breve citazione di Lukács, agli occhi appunto dei soggetti della società, il loro proprio, questo è Marx, meglio ancora, il loro proprio movimento sociale assume la forma di un movimento di cose, il cui controllo essi subiscono invece di controllarlo. Pensate appunto, ecco, adesso invece lo stesso concetto nelle parole di Lukács, sorge un mondo di cose e di rapporti tra cose, cioè il mondo delle merci e del loro movimento sul mercato, regolato da leggi le quali, pur potendo poco a poco essere conosciute dagli uomini, si contrappongono ugualmente ad essi come forze che non si lasciano imbrigliare e che esercitano in modo autonomo la propria azione. Nella società capitalistica, sempre citazione da Lukács, la realtà che l'uomo stesso, in quanto classe, diceva giustamente, ha fatto, gli si presenta dinanzi come una natura estranea, eccetera. egli è in balia delle sue leggi. Allora, non c'è niente di particolarmente strano in questo, insomma, pensate ai movimenti della finanza, pensate alla crisi economica, pensate alla disoccupazione. Quella realtà che è un prodotto delle attività umane si trasforma in un processo governato da leggi che si sottraggono, dice Marx e ripete Lukács, che si sottraggono al nostro controllo e che ci dominano anziché essere noi a dominarle. La cosa, diciamo così, domina l'uomo, il movimento delle merci e dei capitali domina sugli individui. La società si trasforma appunto in processo oggettivo e causale. Allora, questa, diciamo, intuizione di fondo è quella che si condensa appunto nel concetto lucacciano di reificazione, per cui il processo economico-sociale dentro il quale viviamo è certamente un risultato delle nostre azioni, ma ci si impone come una legge estranea, rispetto alla quale non ci resta che adattarci e subire. Ora, questo è un tema che Marx esprime fortemente in tante pagine, insomma, Capitale, più ancora nei Grundriss, cioè nei lineamenti fondamentali dell'economia politica del 1857-58, che precedono di una decina d'anni il primo libro del Capitale 1867 e che ne sono, diciamo, un primo geniale abbozzo. Ecco, quello, come diceva giustamente Vittoria, il Marx di Lukács è un Marx fortemente hegeliano, perché questo movimento dialettico è, diciamo, ricalcato sul movimento dialettico di Hegel. Ma la cosa geniale, diciamo così, di Lukács, e anche questo è un aspetto della sua importanza, sta nel fatto che egli legge, diciamo così, questo hegelismo di Marx, tira fuori questo hegelismo di Marx senza aver potuto leggere, siamo nel 23, senza aver potuto leggere i testi nei quali poi dopo è stato scoperto l'hegelismo di Marx, cioè dove veramente c'era l'hegelismo di Marx, perché non stava nel Capitale, ma stava appunto nei lineamenti fondamentali, che sono molto più dialettici, no? E per questo da alcuni molto più amati, ma credo che sia sbagliato, diciamo, privilegiare il primo abbozzo, per quanto geniale, rispetto all'opera compiuta dopo 10 anni di pensamento ulteriore. Però comunque molti, è un'opera sicuramente dove si sente molto di più la presa della dialettica hegeliana, ma anche nei manoscritti del 44, i manoscritti economico-filosofici, che anche quelli Lukács non poteva conoscere. Quindi Lukács, diciamo, scova, tira fuori, no? Tutta la dialettica hegeliana di Marx senza neanche aver potuto vedere i testi nei quali questo Marx hegeliano e dialettico c'era effettivamente. Però a quei tempi non si vedeva, a quei tempi si vedevano dei testi che erano molto più leggibili, anche con le chiavi engelsiane, con le chiavi del materialismo. Ecco, allora qui devo dire anche un'altra cosa, cioè come filosofo Lukács ha, come dire, secondo il mio punto di vista, un grande pregio e un grande difetto, cioè è molto capace di grandi visioni, grandi intuizioni, anche geniali, però non è, secondo me, altrettanto grande sul terreno argomentativo, cioè non è un filosofo che argomenti passo passo e ti porti veramente dove bisogna andare, insomma. E questo lo vedremo, del resto già lo mostrava, insomma, Vittoria, ci sono alcune discrasie abbastanza evidenti. Comunque, questa categoria della reificazione è al centro della sua interpretazione, diciamo, dell'epoca, e nel senso che la forma di oggettività della merce e la calcolabilità che questo comporta nella realtà capitalistica diventa una cifra di lettura di tutti i fenomeni dell'epoca. Ecco, in modo particolare, diciamo così, la reificazione si traduce per Lukács sul livello della coscienza individuale quotidiana, che viene, diciamo, completamente colonizzata dalla logica della sfruttabilità e della profittabilità. E come esempi, diciamo così, della coscienza reificata, no? Lukács porta quello, porta per esempio la definizione kantiana del matrimonio, inteso come un contratto per l'uso reciproco delle rispettive qualità sessuali, definizione che Kant dà e che mostra appunto la disumanizzazione della coscienza reificata. Oppure porta un esempio sempre attuale, quello del giornalista di successo, dove, dice Lukács, la prostituzione della sua esperienza vissuta è comprensibile solo come punta estrema della reificazione capitalistica. Cioè la reificazione investe il terreno della soggettività, che diventa appunto qualcosa di fungibile, vendibile e commerciabile. Ma più forte ancora è il collegamento, diciamo, tra la reificazione capitalistica e lo sviluppo delle scienze quantificanti, formali, neutrali. Qui naturalmente Lukács mette insieme Marx e Max Weber, come è già stato ricordato, e quindi il razionalismo moderno, diciamo così, appare come un risultato sia dei processi descritti da Max Weber, appunto il disincanto del mondo, l'affermazione della razionalità strumentale, eccetera, sia di quelli descritti da Marx, appunto la reificazione capitalistica. E in generale, diciamo, è sotto il primato del modo di vedere improntato, diciamo così, alla calcolabilità capitalistica che si muovono anche le scienze della natura. Quindi primato dei metodi quantitativi, naturalmente, tentativo di ridurre anche le scienze della società a quelle naturali, contro il quale, come ricordava molto utilmente Vittoria, Lukács si oppone, perché alle sue spalle c'è tutto il dibattito neocantiano sulla differenza tra scienze sociali e scienze naturali, scienze dell'uomo e scienze della natura, scienze individuali e scienze di leggi, eccetera. E dunque, appunto, il primato dei metodi quantitativi, il formalismo del sapere, e in buona sostanza il modello di razionalità che viene sviluppato nella società capitalistica, secondo Lukács, è caratterizzato dal fatto che si dà il massimo sviluppo alle forme di razionalità parziale e, per così dire, locale, mentre resta completamente nell'irrazionalità la dimensione del globale. Quindi razionalità parziale e irrazionalità globale, estrema, diciamo, precisione settoriale, ma inadeguatezza nella comprensione delle grandi dinamiche. Lo dice per esempio Lukács stesso a proposito di fenomeni che abbiamo visto anche recentemente, cioè il rapporto tra la teoria economica e le crisi economiche, appunto, che la razionalità settoriale, poi quella per esempio delle scienze economiche, si rivela incapace di mettere a fuoco i grandi processi critici complessivi, perché è presa, diciamo, nei suoi calcoli estremamente sofisticati ma anche estremamente limitati. Quindi razionalità parziale versus irrazionalità globale. E altro aspetto centrale per, diciamo, mettere a fuoco gli effetti spirituali della reificazione capitalistica è il rapporto tra reificazione capitalistica e filosofia moderna. Questo è un punto molto interessante, appunto le antinomie del pensiero borghese, quello che a cui ha accennato Vittoria senza poterlo sviluppare. Dunque, ecco, come si deve leggere questa parte? Cioè, che cosa ci vuole dire Lukács? Dunque, a mio modo di vedere, quello di Lukács è un tentativo di stabilire una forte connessione tra la trasformazione della società in senso mercantile capitalistico e la trasformazione che nella modernità viene subita dalla filosofia, appunto da quello che lui chiama il pensiero borghese. Allora, in che cosa consiste questo, diciamo, chiamiamolo per il momento parallelismo, no? Consiste che, come nella società mercantile capitalistica abbiamo visto che i processi oggettivi che trasformano, scuotono la società, si sottraggono alla presa dei soggetti e si contrappongono ad essi come un destino estraneo che ti fa appunto rimanere per esempio disoccupato, che ti fa subire la crisi, che ti fa allora così questa estraniazione di soggetto e oggetto, diciamo così, per cui l'individuo non si riconosce più nella dinamica sociale che pure dovrebbe essere qualcosa di prodotto dagli individui stessi. Bene, questa estraneazione di soggetto e oggetto è esattamente la situazione spirituale con la quale si confronta la filosofia moderna, diciamo da Cartesio in poi, cioè una filosofia che non dà più per scontato che la nostra ragione soggettiva possa cogliere la realtà oggettiva delle cose. Questo che cosa vuol dire? Beh, per la filosofia moderna, appunto, diciamo da Cartesio a Kant, diventa centrale il problema gnoseologico, cioè il problema di come sia possibile la conoscenza. Questo problema per gli antichi non esisteva, nel senso che era dato per scontato. L'approccio, infatti, si può sostenere, si è sostenuto da molte parti, che l'approccio degli antichi, dei classici, era un approccio di tipo ontologico, cioè Aristotele ci parla della realtà, ci dice guarda, la realtà è fatta così, c'è una sostanza che ha degli accidenti, eccetera, eccetera, eccetera, e questa è la ontologia, cioè la scienza dell'essere, cioè di come stanno le cose, per dirla in parole semplici. Il pensiero moderno non ha più questa capacità, non ha più questa, diciamo, fiducia in se stesso, e quindi abbiamo un Cartesio che dice ma tutto quello che sta nella mia testa potrebbe essere tutto sbagliato, potrebbe essere solo un enorme inganno, io potrei non avere nessuna, no? Poi dice per fortuna che so di pensare, perché se no, no? L'unica certezza alla quale mi posso attaccare è che se dico che nella mia testa anche c'è tutto errore, tutto inganno, però sto dicendo che qualcosa nella mia testa c'è, che sto pensando, eccetera, e da lì cerca una costruzione. Ma il ponte tra, diciamo, la soggettività e il mondo oggettivo è tutto da costruire con enorme fatica, è la fatica appunto del pensiero moderno, dei dualismi del pensiero borghese che appunto si cerca di superare nel percorso che va, diciamo, da Cartesio a Kant a Hegel, e dove in qualche modo Kant dà una soluzione paradossale, già anche questo era stato già accennato da Vitt, dà una soluzione paradossale Kant quando ci dice che noi certo possiamo conoscere il mondo, ma solo quello che Kant chiama il mondo fenomenico, cioè come appare a noi, ma il mondo come appare a noi non sappiamo se è il mondo vero. Dietro c'è il mondo vero, il mondo di quella che Kant chiama la cosa in sé, cioè come stanno realmente le cose, come potrebbero stare realmente le cose, il modo in cui noi le percepiamo, le strutturiamo, le comprendiamo e le organizziamo. Ecco, allora che succede? Che quindi questa, diciamo così, questa dualità di soggetto e oggetto, che è la caratteristica del pensiero borghese moderno, non è altro che la traduzione sul piano intellettuale, direi, questa almeno è la lettura che io do di Lukács, poi forse non è del tutto giusta, ma insomma, questa è, non è altro che la traduzione sul piano intellettuale di quella scissione di soggetto e oggetto, o anche alienazione, estraniazione, perché queste sono le altre categorie che vanno usate insieme a reificazione, no? Infatti Lukács dice, in tedesco c'è Verdinglichung, che è il diventar cosa, no? Ding. E poi c'è Entfremdung, che è fremd, estraneo, straniero, diventare estraneo, quindi il mondo che è alienato diventa estraneo, no? Ecco, e Lukács dirà poi nella sua autocritica del 67 che appunto è reificazione ed estraniazione, lui le aveva trattate come una cosa sola nel libro del 23, insomma come un unico fenomeno, invece andrebbero distinte, le cose sono più complicate, eccetera, però in realtà insomma c'è molto in comune, cioè la reificazione significa che il mondo ti appare come un mondo di cose che ti dominano e che tu non riesci a dominare, la estraniazione significa che ti appare come un mondo estraneo, quindi non, nel quale non ti riconosci, diciamo, non ti ritrovi, no? E quindi la vicenda del pensiero, appunto, borghese è la ricerca del superamento di questo dualismo, oppure la rinuncia al superamento di questo dualismo. Ecco, perché? Perché mi sembra che, leggendo le pagine di Luca, ci sono fondamentalmente due possibilità che si aprono, appunto, di fronte a un pensiero che non ha più la beata ingenuità di potersi, diciamo, appropriare immediatamente delle cose, no? Una è due vie che si aprono dopo Kant, questo Luca ce lo spiega molto bene, insomma, dà un'interpretazione molto interessante, tra l'altro tiene molto molto presente quella che in italiano è tradotta come la storia della filosofia di Ernst Cassirer, libro sul quale si formarono le nostre generazioni, ora purtroppo credo sia di 24 volumi della storia della filosofia, che poi in tedesco non si chiama storia della filosofia, si chiama Das Erkenntnisproblem, cioè il problema della conoscenza, perché appunto è la modernità, la filosofia moderna è vista sotto quella chiave, come filosofia che affronta il problema della conoscenza. E allora ci sono due vie, diciamo così, dopo Kant. Una è, io schematizzando dico, una è quella della rassegnazione epistemologica, cioè il dualismo non si supera e ci si rassegna a considerare la nostra conoscenza come un utile strumento che serve per fare determinate cose, ed è la via del pragmatismo, è la via della filosofia del come se, è la via dell'empirio-criticismo, quello criticato da Lenin, no? Mach e Avenarius, cioè la via, diciamo, dove il sapere è, non pretende più di cogliere nessun tipo di realtà, ma è uno strumento che funziona per fare determinate cose, insomma. E dall'altra invece c'è la via di andare oltre, la via dopo Kant, di andare oltre la scissione kantiana, oltre il limite della cosa in sé, appunto è la via hegeliana di cercare l'identità, di superare il dualismo di soggetto e oggetto nel processo storico, mostrando come soggetto e oggetto si creano reciprocamente, non sono queste due dimensioni separate, ecco, e quindi è la via poi appunto di Hegel e quindi di Marx, secondo Lukács. L'unica differenza sta nel fatto che in Hegel il punto di approdo di tutto il percorso dove si supera, diciamo, il dualismo di soggetto e oggetto, di soggetto e mondo, quindi è la filosofia. La filosofia è l'autoconoscenza del mondo, è il mondo che conosce se stesso, perché la filosofia è mondo, no? Siamo qui, siamo persone, ma è il mondo che si conosce, quindi è l'autoconoscenza del mondo. Quindi, in parole povere, diciamo che nella costruzione hegeliana l'identità di soggetto e oggetto si attinge nello spirito assoluto, che è appunto la fase somma del suo sistema, il gradino più alto del sistema. Ecco, ma, dice Lukács, ma questo è un superamento solo teorico della scissione soggetto e oggetto. Con Marx si fa il passo ulteriore, l'unità di teoria e prassi, e è il soggetto, cioè la classe, che, come questo è già stato detto, quindi non mi ci fermo, che deve diventare costruttore positivo, conoscere e costruire e trasformare il mondo. La classe che conosce il mondo, appunto, perché è il mondo che quella classe fa, perché al cuore del mondo capitalistico c'è la classe del proletariato, lo conosce e quindi lo può trasformare, eccetera. E quindi si raggiunge la veridica unità di soggetto e oggetto sul terreno storico pratico. Allora, se questo è, diciamo, il percorso, ci sono naturalmente dei problemi, come è già stato in parte detto. E quali sono i problemi principali che io vedo in questa, ripeto, visione molto molto interessante, cioè è la capacità di Lukács di fare questi grandi, insomma, è impressionante, diciamo, grandi carrellate, grandi idee, no? E grandissima cultura, eccetera, poi in un personaggio che, come sapete, ha vissuto delle fasi incredibili, cioè, se si legge quello di L'anima e le forme, diciamo, non ci si capisce niente, però è interessantissimo, è molto affascinante. Poi bisogna vedere come è stato tradotto dal tedesco, com'è quel tedesco, sicuramente molto difficile, insomma, è una roba assai complicata, molto piena di stimoli. Poi si legge Storia e coscienza di classe, poi c'è tutta l'ultima fase che è una svolta completa, insomma. Comunque, diciamo che quali sono i ecco, i principali problemi sui quali veramente 5-10 minuti volevo soffermarmi. Beh, intanto appunto il problema numero uno è già stato detto, è questo proletariato come soggetto oggetto identico dello sviluppo storico, no? Allora qui, diciamo, lo stesso Lukács fa nel 67 una autocritica radicale, nel senso che cos'è che osta, diciamo così, all'idea del soggetto oggetto identico dello sviluppo storico? Beh, io direi osta il fatto che la prassi appunto ha sempre a che vedere con una alterità. Il modello della prassi, dirà poi Luca, c'è il lavoro, ma nel lavoro c'è sempre l'alterità della natura, cioè c'è qualcosa che è comunque altro da noi, che non possiamo né completamente penetrare né completamente dominare. Quindi questa illusione, diciamo, messianico-prometeica di un proletariato che crea il mondo a sua immagine, diciamo così, no? Non è realistica, non fa i conti con il fatto che c'è sempre un'alterità, appunto, a partire dal lavoro, che diventerà poi per il tardo Luca c'è la categoria centrale per comprendere l'uomo e la società. A partire dal lavoro ci misuriamo sempre con qualcosa che è altro da noi, che non è mai identificabile, completamente assorbibile, completamente dominabile, eccetera. E quindi qui viene, diciamo, la difficoltà o la problematica epistemologica, della quale poi curiosamente si parlava proprio 3-4-5 giorni fa, quando c'era qui Bellofiore, Finelli, Marramao, non c'eri, ecco, no, appunto, sì. Si parlava proprio di questo, perché c'era, tra i libri di cui abbiamo parlato, c'era la nuova edizione di questo libro di Alfred Schmidt, Il concetto di natura in Marx, dove appunto si dice che si sostiene una tesi, diciamo, più ispirata alla scuola di Francoforte e ad Adorno, e critica nei confronti di Lukács, che l'epistemologia di Marx non è la radicalizzazione di Hegel nel senso dell'unità di teoria e prassi, come in Lukács, ma invece sarebbe Marx va pensato tra Kant e Hegel, cioè tra la prassi che trasforma, ma anche la permanenza della alterità, che non è mai riducibile al soggetto, quindi la non identità, avrebbe detto poi Adorno, il filosofo della scuola di Francoforte, proprio, diciamo, contrapponendosi in qualche modo a Lukács. Quindi un primo punto critico, diciamo problematico, è l'identità di soggetto-oggetto. Poi un secondo punto problematico è lo stesso concetto di reificazione. In che senso? Perché diciamo che Marx e Lukács ripetono continuamente che la realtà sociale si contrappone agli uomini come una legge autonoma, come un processo che essi non possono governare, questo nel capitalismo, no? E questo è, diciamo, l'essenza della reificazione capitalistica. È il dominio della cosa sull'uomo, è il dominio della legge economica sugli individui viventi, eccetera, eccetera. Ecco, però questo discorso, no? Perde che cosa? Beh, questo discorso perde, a mio modo di vedere, la consapevolezza del fatto che il rapporto tra l'azione individuale e la dinamica sociale non è mai un rapporto lineare e trasparente. Cioè, diciamo, se noi guardiamo questo discorso dal punto di vista della teoria sociale e prendiamo per esempio in mano un sociologo come Durkheim che cosa ci dice? Ci dice che i fatti sociali sono cose perché hanno una rigidità, a prescindere che siano capitalistici o non capitalistici, hanno una rigidità che fa sì che essi si contrappongono agli individui ed esercitano su di essi una pressione, quella che appunto Durkheim chiama la contrainte sociale, cioè la costrizione. Dunque, la reificazione, diciamo così, dei processi sociali è qualcosa, questa sarebbe la critica che si potrebbe fare dal punto di vista, diciamo, di una certa teoria sociologica, la reificazione dei processi sociali è qualcosa che va ben oltre la società capitalistica, è come anche la naturalizzazione delle istituzioni sociali, che sono certo prodotti dell'azione umana, dell'attività incrociata di tanti individui, ma non sono mai riconducibili e acquistano una consistenza autonoma che domina sugli individui stessi che le hanno create. Quindi il tema, diciamo, è molto importante questo tema per capire la dialettica sociale, ma non è detto che la reificazione, non è detto che si possa stabilire una equazione, diciamo così, biunivoca per cui il capitalismo è reificazione e la reificazione è capitalismo. No, diciamo, nel senso che la reificazione è probabilmente qualcosa di più complesso che riguarda le dinamiche sociali più in generale, e quindi non ci si libera forse dalla reificazione liberandosi dal capitalismo. Per dire, un riferimento che io trovo molto convincente è, a questo proposito, quello di due sociologi della conoscenza, diciamo così, molto bravi, che scrivevano, insomma, tempo addietro, si chiamano Peter Berger e Thomas Luckman, il libro La costruzione sociale della realtà, The Social Construction of Reality, dove appunto loro sostengono che la tendenza a reificare è qualcosa che è radicato antropologicamente, lo troviamo nelle società primitive, insomma, non è che reificazione e capitalismo possono essere letti come una qualcosa che va necessariamente insieme, anche se è chiaro che questo non toglie l'importanza, diciamo, che ha avuto Lucas nel mettere a fuoco il problema, e qui bisognerebbe sentire che ne pensa Laura Pennacchi, il problema, diciamo, di questa, della specifica reificazione nella quale viviamo noi nell'economia capitalistica, dove appunto ci sentiamo come se fossimo dominati da un destino immodificabile rispetto al quale, diciamo, non possiamo fare sostanzialmente nulla, no? Questa apparenza, diciamo, che continuamente viene riproposta, continuamente si schiaccia, che in un certo senso non è neanche, è un'apparenza, una realtà, insomma, c'è una specifica realtà della reificazione capitalistica che andrebbe sicuramente, che rimane un punto importante. E per finire, il tema molto interessante, come abbiamo visto, almeno dal mio punto di vista, è quello del rapporto tra dinamiche, diciamo, economiche e dinamiche spirituali e intellettuali, no? Allora, alla società borghese capitalistica corrisponde la filosofia moderna, diciamo, che vive appunto la scissione di soggetto e oggetto. Alla alienazione capitalistica corrisponde la filosofia moderna con la sua scissione di soggetto e oggetto. Va bene. Allora, questa è una suggestione molto interessante, no? Anche perché avremmo una chiave esplicativa, no? Per cercare di spiegare perché a un certo punto nella testa dei filosofi succede qualcosa e cambia il modo di rapportarsi e il modo di pensare, eccetera. Però qui ci sono, diciamo, due problemi. Innanzitutto una questione che è quella che ricordava già Vittoria, cioè qual è la specificità dell'ottica marxista materialista? È il primato dell'economia o è il primato della totalità? Qua bisogna mettersi d'accordo, perché Lukács dice, appunto, come è stato ricordato, ciò che distingue in modo decisivo il marxismo dalla scienza borghese non è il predominio delle motivazioni economiche nella spiegazione della storia, ma il punto di vista della totalità. E qui potremmo dire, torniamo a Hegel, cioè è che ogni aspetto della realtà non deve essere isolato, appunto non deve essere parcellizzato come fanno le scienze moderne, eccetera, e come secondo Hegel fa quello che Hegel chiama l'intelletto astratto, che fa la realtà a pezzettini, diciamo così, ma ogni aspetto deve essere compreso nei suoi nessi con tutti gli altri elementi, eccetera, eccetera. A questo è il discorso della totalità. Ma un conto è il discorso della totalità, altro è il discorso del primato dell'economia. Cioè, nell'ambito della totalità, no? Che certamente nessuno che abbia un po' di Marx e di Hegel può, però c'è una asimmetria, cioè c'è un elemento che ha una più forte determinazione. Allora, i mutamenti della filosofia si spiegano, anche per Lukács, con i mutamenti del tessuto economico-sociale, e questo sarebbe marxismo, no? Oppure è la filosofia, è il mutamento della filosofia che spiega i mutamenti economico-sociali? Questo Lukács ovviamente sarebbe assurdo, non direbbe mai una cosa del genere, no? Questo semmai lo poteva dire Max Weber quando diceva che l'etica protestante spiega lo sviluppo del capitalismo. Allora lui si mette di punta e dice no, io ti rovescio Marx e ti dico che, no, il fattore ideale è forse più importante di quello materiale. Ecco, però qui appunto ci sono due questioni. Primo, capire come si rapporta il punto di vista della totalità con comunque un certo primato della produzione materiale e dell'ambito economico che permane. Perché permane? Perché? Beh, permane non solo per questo rapporto che si stabilisce tra sviluppo del capitalismo e trasformazione della filosofia, ma anche permane perché Luca ci dice chiarissimamente che la forma di merce, quindi qualcosa di squisitamente economico, è ciò a partire da cui si spiegano tutti i fenomeni spirituali della società capitalistica moderna. Quindi, primato della totalità o primato dell'economia? Questo è un punto. E poi, ammesso che c'è un certo primato dell'economia, come agisce, diciamo così, come questo parallelismo, questi mondi, il mondo, diciamo, della produzione materiale, il mondo spirituale che Luca ci indaga così acutamente con tanta ricchezza di conoscenza eccetera, ma come si spiega l'influsso, diciamo, il rapporto, no? Beh, questo è stato sempre un problema che per il materialismo storico non ha mai risolto, perché si dice i mutamenti nella sfera della produzione materiale determinano quelli della produzione spirituale. Sì, ma che vuol dire determinano? Li causano, non li causano? Allora arriva Engels e dice li determinano in ultima istanza. Sì, vabbè, ma che vuol dire in ultima istanza? Cioè, il problema di come si pensa, diciamo, se si vuole avere uno sguardo su questa tematica che è fondamentale per costruire una scienza sociale, una comprensione della società, eccetera, cioè il rapporto tra mutamenti nei processi economici, materiali e mutamenti nei processi ideali, però come si pensa questo rapporto non è affatto chiaro, secondo me non è chiarito neanche da Luca stesso. Bene, io mi fermo qui e vi ringrazio per la pazienza.